L'azione del Verbo sui profeti. Quando ascoltate le parole dei profeti, proprio come dalla loro bocca, non dovete credere che siano dette da essi stessi mentre sono ispirati, ma dal Verbo divino che li muove. Talora, come vaticinatore, annuncia le cose che stanno per accadere. A volte parla come per bocca di Dio Padre e Signore di tutte le cose, qualche volta come per bocca di Cristo. Talvolta come per bocca dei popoli che rispondono al Signore e Padre loro. Analogamente, presso i vostri scrittori è possibile vedere che è uno solo colui che scrive l'opera, mentre introduce vari personaggi dialoganti. Poiché i giudei non comprendono queste cose, pur possedendo i libri dei profeti, non solo non riconoscono che il Cristo è venuto, ma odiano noi che affermiamo che egli è venuto come era stato annunciato e che dimostriamo essere stato crocifisso da loro. I vari tipi di profezie. Perché anche questo vi sia chiaro, da parte del Padre, per mezzo di Isaia, il profeta di cui abbiamo detto, furono pronunciate queste parole. Il bue conosce colui che lo possiede e l'asino la mangiatoia del suo padrone. Israele però non mi conobbe e il mio popolo non mi accolse. Guai, o nazione peccatrice, popolo pieno di peccati, seme cattivo, figli iniqui, avete abbandonato il Signore. E ancora in altro luogo, quando lo stesso profeta parla in modo simile da parte del Padre. Quale casa costruirete per me, dice il Signore? Il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. E ancora in altra parte. L'anima mia odia le vostre neomenie e i sabati. Non sopporto il grande giorno del digiuno e il riposo, né vi esaudirò quando verrete ad apparire davanti a me. Piene di sangue sono le vostre mani. Anche se portate fior di farina e aromi, mi danno nausea. Non voglio grasso di agnelli e sangue di tori. Chi infatti ha chiesto queste cose dalle vostre mani? Sciogli invece ogni nodo d'ingiustizia, dissolvi le durezze dei rapporti violenti, dà riparo a chi è senza tetto e nudo, spezza il tuo pane con l'affamato. Potete conoscere quali siano dunque gli insegnamenti di Dio per mezzo dei profeti. Quando lo spirito profetico parla da parte di Cristo, così dice: «Io stesi le mie mani su un popolo senza fede e in disaccordo, su coloro che camminano per una via non buona». E ancora: «Ho offerto il mio dorso ai flagelli e le mie guance alle percosse, e non ho allontanato il mio volto dalla vergogna degli sputi. Il Signore fu il mio aiuto, per questo non indietreggiai, ma trasformai il mio volto come dura pietra e mi accorsi di non provare vergogna, poiché è vicino colui che mi ha giustificato». E ancora quando dice: «Questi gettarono la sorte sulla mia veste e trafissero i miei piedi e le mani. Io, in vero, mi coricai e mi addormentai e mi rialzai, poiché il Signore mi accolse». E ancora quando dice: «Mormorarono tra le labbra, scossero il capo, dicendo: liberi se stesso». Potete apprendere che tutte queste cose accaddero a Cristo da parte dei giudei. Infatti, dopo che egli fu crocifisso, muovevano le labbra e scuotevano la testa dicendo: «Lui che ha risuscitato i morti, liberi se stesso». Quando lo spirito profetico parla per profetizzare ciò che sta per accadere, dice così: «Da Sion uscirà una legge, e la parola del Signore da Gerusalemme, e giudicherà in mezzo alle genti e rimprovererà gran parte del popolo. Spezzeranno le loro spade per farne degli aratri, le loro lance per delle falci, e non impugneranno la spada, gente contro gente, e non impariranno più a combattere». Potete persuadervi che così è avvenuto. Da Gerusalemme degli uomini si sparsero per il mondo, 12 di numero, e questi erano ignoranti. Non sapevano parlare, ma grazie alla potenza di Dio, rivelarono a tutto il genere umano che erano stati inviati da Cristo per insegnare a tutti la parola di Dio. E noi, che prima ci uccidevamo gli uni con gli altri, non solo non combattiamo più i nemici, ma per non mentire e non ingannare coloro che ci interrogano, volentieri moriamo confessando il Cristo. Eppure sarebbe possibile attenersi al detto: la lingua giurò, ma il cuore non ha giurato. Sarebbe cosa ridicola se i vostri soldati, riuniti e schierati, rispettassero il vostro giuramento a costo della propria vita, dei genitori, della patria e di ogni familiare, anche se voi nulla di immortalità potete procurare loro, mentre noi, che amiamo l'immortalità, non ci sottoponessimo a qualsiasi cosa per poter ottenere da colui che può le cose che desideriamo. Ascoltate come fu vaticinato anche riguardo a coloro che annunziarono la sua dottrina e rivelarono la sua verità, poiché in questo modo parlò, per mezzo dello spirito profetico, il profeta e re di cui ho detto. Il giorno erutta parole al giorno, e la notte annuncia una notizia alla notte. Non vi sono discorsi né parole di cui non si sentano le loro voci. Su tutta la terra giunge il loro suono e le loro parole fino ai confini del mondo. Nel sole pose la sua abitazione, ed egli, come uno sposo che scende dal talamo, gioirà come un gigante nel percorrere il cammino. Abbiamo ritenuto che è cosa buona e giusta ricordare, oltre queste cose, ciò che fu detto in altri discorsi profetizzati dallo stesso David e dai quali a voi è possibile sapere in quale modo lo spirito profetico esortò gli uomini a vivere. E come indicò la congiura realizzata contro il Cristo da Erode, re dei Giudei, e dagli stessi Giudei, e da Pilato, vostro prefetto, presso di loro insieme ai suoi soldati. Come poi in lui avrebbero creduto uomini di ogni razza, come Dio lo avrebbe chiamato figlio, e come abbia annunciato che tutti i nemici si sarebbero sottomessi a lui, e come i demoni, per quanto possono, tentino di sfuggire al potere di Dio, Signore e Padre di tutti, a quello dello stesso Cristo. Come infine Dio chiama tutti alla conversione, prima che giunga il giorno del giudizio. Così è detto: «Beato l'uomo che non camminò secondo il consiglio degli empi e non si fermò lungo la via dei peccatori e non si sedette sulla cattedra dei perversi, ma la sua volontà è nella legge del Signore e giorno e notte praticherà la legge del Signore. Egli sarà come un albero piantato presso una corrente d'acqua e darà il suo frutto nel tempo opportuno e le sue foglie non cadranno e riuscirà bene ogni frutto che produrrà. Non così gli empi, non così, ma come polvere che il vento spazza via dalla faccia della terra. Per questo gli empi non si leveranno nel giudizio, né i peccatori nel consiglio dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti e distrugge la via degli empi. Per quale scopo si agitarono le genti e i popoli meditarono cose vane? I re della terra insorsero, si strinsero insieme contro il Signore e contro il suo Cristo, dicendo: spezziamo i loro vincoli e liberiamoci dal loro giogo. Colui che abita nei cieli si prenderà gioco di loro e il Signore li schernirà. Poi si rivolgerà a loro nella sua ira e nella sua collera li sconvolgerà. Io però fui posto da lui come re su Sion, il suo monte santo, per annunciare il precetto del Signore. E il Signore mi disse: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me e ti darò le genti come tua eredità e i confini della terra come tuo possedimento. Li pascerai con la verga di ferro, come vasi di argilla li spaccherai. Ora, o sovrani, ascoltate, imparate voi tutti che siete giudici della terra. Servite il Signore nel timore e con tremore esultate a Lui. Accogliete gli insegnamenti affinché mai il Signore si adiri e voi non vi troviate lontani dalla giusta via nel momento in cui la sua ira divamperà all'improvviso. Beati tutti coloro che hanno riposto fede in Lui. Inoltre, lo spirito profetico, per bocca di David, rivelando con un'altra profezia che Cristo avrebbe regnato dopo essere stato crocifisso, così disse: canti al Signore tutta la terra, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, poiché grande è il Signore e certamente deve essere lodato, terribile sopra tutti gli dèi. Infatti, tutti gli dèi dei popoli sono idoli di demoni, mentre Dio creò i cieli. Gloria e lode alla sua persona, forza, potenza e vanto nel luogo della sua santità. Rendete gloria al Signore, al Padre dei secoli. Ricevete grazia ed entrate al suo cospetto e adoratelo nei suoi santi templi. Davanti a lui abbia paura tutta la terra, si raddrizzi e non vacilli, si gioisca presso i popoli. Il Signore regnò dal legno. A volte lo spirito profetico parla come se già fossero accadute le cose che devono ancora avvenire, come si può apprendere da ciò che è stato detto. Anche questo chiariremo affinché non ci siano scusanti per chi legge. Gli eventi futuri, perfettamente conosciuti, li annuncia come fossero già accaduti. Volgete la mente a ciò che viene detto, poiché così bisogna che sia recepito. David profetizzò gli eventi che sono già stati citati 1500 anni prima che Cristo, divenuto uomo, fosse crocifisso. Ma nessuno crocifisso tra coloro che vissero prima di lui procurò gioia alla gente, e neppure nessuno tra quelli che vissero dopo di lui. Ma quello che per noi è Gesù Cristo, crocifisso e morto, risuscitò e salito al cielo, regnò, e dall'annuncio che è stato portato per mezzo degli apostoli a tutte le genti, nasce la gioia in tutti coloro che attendono l'immortalità da lui annunciata. Profezia e libero arbitrio. Affinché, a causa delle cose che abbiamo detto, alcuni non credano che noi affermiamo che i fatti esistono secondo una legge del destino, dal momento che sono predetti eventi conosciuti. Anche questo lo spiegheremo. Avendo imparato dai profeti che i castighi, le pene e le buone ricompense vengono date secondo il merito delle azioni di ciascuno, dimostriamo che ciò è vero. Se non fosse così, ma tutto accadesse secondo il destino, non esisterebbe affatto il nostro libero arbitrio. Se infatti fosse destinato che uno sia buono e l'altro malvagio, nell'uno sarebbe meritevole, nell'altro riprovevole. Del resto, se il genere umano non può decidere liberamente di fuggire ciò che è biasimevole, né ha la possibilità di scegliere ciò che è buono, è irresponsabile in ogni modo di ciò che viene compiuto. Ma che l'uomo, scegliendo liberamente, si comporta rettamente o sbaglia, lo dimostriamo. Vediamo che una stessa persona fa esperienza di cose opposte. Se fosse deciso dal fato che essa sia cattiva o virtuosa, non sarebbe capace di cose contrarie né muterebbe frequentemente, ma né i buoni esisterebbero né i malvagi, poiché si dimostrerebbe che il destino è causa di bene o di male e agisce in contraddizione con se stesso. Riteniamo allora che sia vero quello che abbiamo detto prima, che nulla sono il bene e il male, ma solo in base all'opinione si ritiene che una cosa sia buona o cattiva. Ma ciò, come dimostra un ragionamento secondo verità, è una grandissima impietà e una ingiustizia. Affermiamo invece che destino inevitabile sia proprio questo: degne ricompense a coloro che hanno scelto cose buone e allo stesso modo giuste pene per coloro che hanno preferito il contrario. Dio creò l'uomo non come gli altri esseri, quali la pianta o il quadrupede, che non sono assolutamente in grado di scegliere come agire. Infatti l'uomo non sarebbe degno di ricompensa o di lode se non scegliesse da solo ciò che è buono, ma si trovasse nelle stesse condizioni degli animali. Né, se fosse perverso, gli spetterebbe una punizione secondo giustizia, perché non sarebbe tale per causa sua, né potrebbe anzi in alcun modo essere diverso da quello che è. Il Santo Spirito profetico insegnò a noi queste cose, dicendo per bocca di Mosè, che da Dio al primo uomo creato furono rivolte queste parole: «Ecco davanti a te il bene e il male, scegli il bene». E ancora, per bocca di Isaia, l'altro profeta, così fu detto riguardo a ciò da parte da Dio Signore e Padre di ogni cosa: «Lavatevi, rendetevi puri, togliete la malvagità dai vostri cuori, imparate a compiere il bene, abbiate riguardo dell'orfano e siate giusti con la vedova. Venite avanti e parliamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati sono come la porpora, come lana li renderò bianchi. Se sono come il rosso scarlatto, come la neve li renderò candidi. Se voi volete e mi date ascolto, gusterete le cose buone della terra. Se però non mi darete ascolto, le spade vi divoreranno». La bocca del Signore ha detto queste cose. Il detto «la spada vi divorerà» non significa che coloro che non hanno dato ascolto saranno uccisi con le spade, ma la spada di Dio è il fuoco per il quale sono cibo coloro che scelgono di compiere azioni malvagie. Per questo dice: la spada vi divorerà. Ha parlato infatti la bocca del Signore. Se parlava di una spada che recide e immediatamente spezza, non avrebbe detto vi divorerà. Così anche Platone, quando dice la colpa è di colui che sceglie, Dio è innocente, parla avendo attinto dal profeta Mosè. Mosè infatti è più antico di tutti gli scrittori greci. E tutto ciò che riguarda l'immortalità dell'anima o i castighi dopo la morte o la contemplazione delle cose celesti o dottrine simili, i filosofi e i poeti lo dissero e, desuendo la tipologia dai profeti, hanno potuto comprenderle e le hanno spiegate. Di conseguenza, presso tutti loro sembra che esistano dei semi di verità, ma vengono accusati di non aver compreso con esattezza, dal momento che dicono cose contraddittorie gli uni con gli altri. Cosicché, quando diciamo che sono state profetizzate le cose che devono accadere, non diciamo che si compiono per un necessario destino, ma poiché Dio ha la prescienza delle cose che saranno compiute da ogni uomo ed è venuta da Lui la decisione che ogni uomo sarà ricompensato secondo il merito delle azioni e che le offese contro di Lui saranno punite come meritano, predice, per mezzo dello spirito profetico, conducendo sempre il genere umano verso la comprensione e il ricordo, e dimostrando che di lui ha premura e adesso provvede. Per opera dei demoni malvagi fu stabilita la morte per coloro che leggevano i libri di Istaspe o della Sibilla o dei profeti, affinché, incutendo loro paura, fossero distolti quegli uomini che stavano per apprendere la conoscenza del bene e fossero sottomessi a loro, ma alla fine non ci riuscirono. Senza paura, infatti, non solo ci accostiamo a tali letture, ma, come vedete, le portiamo anche a voi per esaminarle, ben sapendo che a tutti saranno gradite. Anche se convincessimo poche persone, avremmo guadagnato moltissimo. Come buoni agricoltori, avremo la ricompensa dal padrone.